Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci. Ok, basta così. Ma noi siamo scienza, non fantascienza. Del resto il Palcolor l'abbiamo inventato noi. Noi siamo Telefunk. La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo. Telefunken, qualità costante nel tempo. She's a small wonder, lovely and bright and soft curls. She's a small wonder, a child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll enchant you out of sight. She's a small wonder, and she'll make your heart break. Microchips here and there. She's a small wonder. Brings love and laughter everywhere. Bam, bam. Ta-da! pensavate non ci avreste più sentite, invece a volte ritornano. Tra l'altro ieri sarebbe stato l'80° compleanno di George Romero, quindi anche noi come i personaggi di Romero siamo tornate. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Cucù! Chi siamo? Cucù. Chi siamo? Siamo tornate, siamo chi tornate siamo? Numerosissime in questa regia. Ospiti temporanei. Una brusca si temporanee. È fatta in tre. Sì, ci siamo fatte in tre. Ebbene sì, abbiamo un ospite. Chi è costei? Sì, salve, sono la vostra presenza principale in Cubo Fisso. Cioè, questa settimana ho calcolato che praticamente sono nel palinsesto di Radio Wombat sempre. Sei la solita malata di protagonismo. Wombatissima! Che palle! Siamo felicissimi di averti qui con noi. Perché abbiamo ripreso, ma la trasmissione praticamente la farà lei. No! ti tocca! Sì, per noi è una ripresa soft, perché il tema è troppo importante, non possiamo scazzare niente, quindi parlerai solo tu! Ti abbiamo fregata! Cioè, non mette per niente pressione questa no, cosa. No, l'abbiamo fatta venire con tipo la promessa di popcorn e birra. Che e ha poi ottenuto, l'abbiamo per cui... tenuto. No, vabbè, grazie. D'altronde, chi non vorrebbe cenare a birra e popcorn tutte le sere? È chiaro, eh? La cena dei poveri. La cena del campione, sì. Campionissime. Campionissime tutte. Carboidrati e sali minerali. Tanti sali minerali, non scordatelo. No, per carità. Bene. Ma perché siamo qui? C'è un pad magico. Sì. Un pad magico. Sì. Sì, no, non svelare i nostri trucchi, che dall'altra parte non lo vedono, che noi stiamo guardando tutto da un pad. Perché ci siamo siamo tecnologiche. Pad. Non a caso abbiamo avuto come spot la memorabilia dei... Stiamo vedendo la stessa? No, niente. Dei televisori Telefunken e poi la sigla della bambina che tutte noi bambine e bambini, non soltanto le bambine, avrebbero voluto essere... Super perché ricchi. Volevamo essere rinchiuse dentro un armadio? No, io perché volevo andare in cortocircuito come faceva lei. Tanto poi dopo ti mettevano a posto i filettini sullo sportellino. Super Vicky, ma io non mi ricordavo assolutamente che la sigla di Super Vicky era quella. Cioè sì. Proprio per niente. Era lei? Sì, vabbè. Se lo dite voi, cioè io... La brusca. Come dicono che il bambino protagonista, fratello, fosse Billy Corgan, il cantante degli Smashing Pumpkins. È uguale. No, non l'avevo mai sentita questa. Come no? Fisionomicamente è no. Lui. Veramente. Sì. Ma guarda. Però sapevo che la mamma dei Robinson era la mamma vera del cantante quello super figo, Lenny qualcosa. Era Nei Jefferson. Brava, Nei Jefferson, scusa. Sì, quello super Robinson. Figo, perché non l'avesse capito, è Lenny Kravitz. Esatto, sì. Che dici? Sì, la mamma dei Jefferson. Ma veramente? Davvero. Sì. Vabbè. Vabbè, dopo questa lunga... È così, il gossip si promemoria. Sa, parte dalla brusca. Non abbiamo sicuramente passato l'infanzia davanti alla televisione. No, per niente. Oggi è giovedì 6 febbraio, siamo finalmente nuovamente in diretta, benvenuti nel 2020 insieme a noi. Ci risentirete... Non è una cosa brutta da dire, non so perché ridere. Perché il 6 di febbraio? Perché noi abbiamo iniziato la trasmissione dell'anno 6 di febbraio. Ma perché ci sono stati gli scrutini. E sai che la brusca dei tempi scolastici è stata troppo presa dal primo quadrimestre. Pensavo più al capodanno cinese, però in effetti... No, per i cinesi non tira una buona aria. No, abbiamo deciso di non parlarne. Era un po' pessima questa cosa. Va bene, stendiamo un velo pietoso. Poveri. In balia dei virus, vi ricordiamo il nostro sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com. Abbiamo ancora anche Facebook? Lo usiamo ancora? Non raramente. Lo so. Però c'è un facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail per mandarci tante carinerie, delle foto simpatiche o dei complimenti a postawombat@insiberia.net. Ci riascolterete il sabato e la domenica, gli orari ve li andate a cercare sul nostro sito wombat.noblog sulla sezione palinsesto. Detto ciò, possiamo iniziare a... Vogliamo ascoltare qualcosa di musicale per rompere un po' questo momento magico e riniziare tutto da capo fra un po'? Oppure iniziamo subito a raccontare l'argomento del giorno? No, dai, facciamo suspense. Suspense. Bene, ci sto, benissimo. Allora vi faremo ascoltare... Eden Twix, Metal Fingers in My Body. Bene, hai scelto. Io stavo andando dall'altra parte, ma va benissimo. No, giusto così. Ci mette un po' a partire. We'll be right back. su questo elicottero che va via. Ci ritroviamo qui. Ben trovati. Cibernetico. Sì. Ma allora, ditemi un po' di cosa parleremo quest'oggi. Allora, la palla l'ho lanciata io, in effetti. Sì. Devo subito confessare. Noi l'abbiamo colta alla grande. Sì, è colpa mia. Perché preparatevi un argomento meraviglioso. No, mi sembra che così si crei troppa aspettativa. È solo una cosa, è una cosetta così. Cioè, no, è una cazzata, però questa nostra amica voleva per forza parlarcene in radio. Abbiamo detto, ma sei sicura? Guarda, ma forse... non è il caso, però insomma ha insistito un po' e allora abbiamo detto vabbè, dai, raccontaci un po'. Allora no, perché praticamente è un po' come quando si va in vacanza, no? E poi si ammorba tutti gli amici con le foto delle vacanze. Diapositive. Anche io pensavo alle diapositive, ma noi siamo vecchie. Cioè, è post cena. Sì, e comunque nessuno fa più vedere le diapositive. Cioè, diciamo, fanno vedere lo smartphone. Comunque, il concetto è lo stesso. Sì. Ah, vabbè, sì, ma anche noi fa. Probabilmente anche io e Nania, però vabbè. Sì, sì. Vabbè, e quindi è andata un po' alla stessa maniera, cioè io sono tornata da un appuntamento che era il compleanno di Havana a Roma, che è un club romano a Roma, qui, se no era strano se era Bolzano, vabbè, continuiamo così, e a questo compleanno uno delle varie, come si può dire, un intrattenimento, uno dei vari intrattenimenti. Uno era il karaoke, ma non è qui il luogo, insomma, per parlare. La prossima puntata si fa sul karaoke, sì, ragazzi. Signori, sì. In effetti è qui il momento per parlarne, ma ora non mi sono preparata, quindi non voglio parlarvi di questo. Ma l'altro intrattenimento praticamente era un gioco di società, di alta società. Altissima. Che abbiamo fatto e che ci hanno proposto perché questo gioco era stato fatto, per l'appunto costruito, inventato da quest'altro collettivo romano. Ora io sono un po' in imbarazzo perché non mi ricordo come si legge. Comunque io leggendolo leggo nome. Nomi space. Sì, ora poi non so se invece si legge Nomi space 2020. Vabbè, insomma, questo collettivo romano ha fatto alcune installazioni, performance e giochi anche su alcuni argomenti che riguardavano la tecnologia e le parole, il linguaggio, varie cose, insomma. Uno di questi, che poi è quello con cui abbiamo giocato, era un gioco che si chiamava Semantic Guerriglia, che ora poi vi spiegherò un po' il dettaglio. Comunque era un gioco che si ispirava un po' a alcuni fenomeni di cui siamo intrisi in questo mondo di oggi, ovvero alcune cose che poi magari spieghiamo un po' meglio, come la filter bubble, l'echo chamber, praticamente dei fenomeni che riguardano un pochino la comunicazione tra esseri umani e macchine in questi anni, e come in particolare gli esseri umani perdano, cioè tendenzialmente dico in questa guerra che loro insomma proprio la chiamano guerriglia, ma poi in fondo insomma di questo si tratta, gli esseri umani proprio stanno perdendo alla grande. E quindi parlava di questo e chiaramente io mi sono entusiasmata perché era effettivamente ci siamo divertiti un sacco, era un gioco molto divertente, ben pensato secondo me. Sono tornata e ho detto appunto alle bruschette: ah, è bellissimo, perché non c'eravate anche voi? Dai. E quindi ne abbiamo fatto una puntata. No, ne stiamo facendo una puntata. Ne stiamo facendo una puntata. Sì. Pensa come siamo bravi. Perché siamo orgogliosissime che tu abbia pensato a noi in quel momento. Ci mancherebbe. E anche curiose, perché non essendoci state, insomma, siamo... Sì, poi chiaramente dovremmo portarlo anche a Firenze. Sarà fatto. Vi leggo il perché almeno magari si capisce un po' meglio. Vi leggo un po' l'abstract, quello che loro hanno scritto, che è un po' la descrizione di questo gioco. È l'anno cibernetico 2029. Già a me cibernetico mi piace tantissimo. Vabbè. La maggior parte delle comunicazioni tra le persone sono diventate digitali e sono mediate da sistemi di intelligenza artificiale. A me basterebbe questo per chiudere la puntata. Ciao, allora ci vediamo giovedì prossimo. Sì, che poi non l'anno 2029, ma l'anno 2020 già. Però vabbè. Sì, infatti. Vabbè. Sistemi ad apprendimento automatico si rinnovano di continuo con lo scopo di arrivare ad eguagliare la finezza del linguaggio naturale degli umani, per interpretarne le sfumature linguistiche o addirittura quelle del tono di voce e ad individuarne il contesto. Ma mi vuoi dire che possono pure parlare marchigiano? Che possono pure parlare cuscì? Secondo me non ce la fanno. Vabbè, no. Ci provano, ma non diamo anticipazioni. Tra le pieghe di questo scambio continuo di parole tra macchine e persone si gioca una guerra sommersa dove le intelligenze artificiali cercano di standardizzare ed omologare il più possibile le comunicazioni, le parole ed i significati, mentre isolati gruppi di umani cercano di resistere all'egemonia semantica delle maggioranze. Io ci rivedo tantissimo. Dio! In questa guerra impari... per difendere la ricchezza tornava la frase, vedi che sto già cedendo alle macchine. Fatta. In questa guerra impari per difendere la ricchezza e la pluralità dell'immaginazione ne rimarrà solo uno. Chi rimarrà privo di senso morirà. Siete pronti a combattere fino all'ultima parola? Io ho già perso. Non è vero. Mi fingo morta. Ti butti in terra e mostri la pancia. Mi fingo morta, sicuro. Sì. Allora, il gioco era così. Praticamente eravamo, ora non mi ricordo quanti, comunque eravamo una decina più o meno, insomma. Eravamo divisi in squadre e a ogni squadra venivano consegnate delle carte. Ogni carta era una parola. Queste parole potevano essere dei verbi, degli oggetti, degli aggettivi, ma non c'era l'obbligo di rispettare esattamente il ruolo che gli veniva dato. Cioè, quindi te potevi trasformare un aggettivo in un avverbio, insomma, potevi un po' giocartela. Bello, bellezza. Sì, tipo, perché okay. Sennò insomma era un po' esagerato. Tipo troppo vincolante. Configurare, configurazione, queste cose qua. E in realtà, siccome trattandosi del compleanno di Havana, queste parole erano state scelte in un range di parole che secondo chi aveva creato questo gioco erano le parole del gergo di quella comunità che stava giocando, quindi erano parole da nerd. Ovviamente. E quindi c'era per la difficoltà si moltiplica. No, per noi era facilissimo. Quindi c'era appunto configurare, computer, Bill Gates, perché c'erano anche nomi propri. Ma potevate dire Bill Gatesare? Non è stato detto, però si poteva dire. Campionessa! Si sarebbe potuto dire. Infectore. E quindi c'erano tutte queste parole e si doveva, allora, venivano consegnate appunto, ora non mi ricordo, ma erano tante, e c'erano anche dei doppioni, quindi più squadre potevano avere delle parole in comune, anzi vedremo, insomma funzionava abbastanza così. E poi c'era un tabellone, c'era un master, che è chiaramente quello un po' che sta sempre lì a vigilare e a condurre il gioco. A ogni giro, a ogni turno, una squadra doveva comporre una frase di senso più o meno compiuto, insomma, che non fosse proprio... O computato. Sì. Una frase scegliendo in maniera spontanea e libera delle parole che aveva. Tipo ne doveva scegliere, mi sembra quattro, doveva usare quattro parole. Non era necessario che fosse un verbo, un oggetto, poteva anche fare quattro verbi se proprio voleva. Comunque doveva fare una frase con queste carte. Alla fine del turno, quando avevano giocato tutti, del giro quindi, il master praticamente guardava un po', vedeva il risultato, vedeva quali parole erano state non erano state scelte da nessuno e le eliminava. Diceva, boh, basta, questa, via. Metteva una croce. No! Via, morta. Morta la parola. Sì. È perché se nessuno l'ha scelta quella parola, è una parola impopolare, evidentemente, no? Quindi, via, parola morta. E tutti i giocatori dovevano levare dai propri mazzi quella parola. A quel punto, chiaramente, mano a mano che giocavi, ti rimanevano sempre meno carte in mano. Un altro criterio non era l'unico modo per eliminare queste carte. In realtà il master, a sua cattiveria, poteva anche decidere a caso, il master fa un po' che gli pare, di eliminare anche altre carte che non gli piacevano. Quelle utilizzate comunque da qualcuno almeno. Utilizzate o no. poteva decidere che bah, questa qua la leviamo lo stesso. Quelle non utilizzate tanto sarebbero andate via comunque. Anche tra quelle utilizzate sì, poi ne leva qualcuna. Quindi praticamente di giro in giro il tuo linguaggio si impoveriva sempre di più. E tu ti ritrovavi a dover comporre queste frasi con molte meno parole chiaramente in mano, e poi con parole che erano quelle simili a tutti gli altri. Quindi cosa succedeva? Che chiaramente mano a mano che il gioco andava avanti tu avevi un linguaggio sempre più omologato chiaramente e sempre più povero, e le tue frasi, insomma, dovevi proprio mettercela tutta per far venire una frase che non fosse identica a quella degli altri e che non fosse anche uguale a quella che avevi detto la volta prima, perché insomma, cioè, più o meno siamo lì. Quindi, ora, poi la cosa andava avanti, chiaramente io ho perso quasi subito. Cioè. No, vabbè, era ovvio. No, perché poi abbiamo capito, perché ci hanno svelato a fine gioco, che questo gioco era stato già giocato in un'altra occasione, dove il gruppo sociale, diciamo, in questo caso non era un gruppo di nerd, ma erano un gruppo un po' più militants, più, yeah, e quindi le parole erano tutte a sfondo un po' ideologico, quindi so, c'era Stalin, poi c'era Corteo, poi c'era, credo, non lo so, non ci ho giocato, ma a quanto ho capito più o meno l'andazzo era questo. Quindi chiaramente a un certo punto, sia nel nostro caso che nel caso loro, stando ai racconti, c'erano due tipi di giocatori, quelli che giocavano per vincere, quindi avevano capito che dovevano per forza scegliere le parole che andavano per la maggiore, perché in questa maniera le loro parole non sarebbero state scartate. Chiaro. Quindi altrimenti c'erano quelli che giocavano invece per il piacere di giocare, per fare delle belle frasi. Quindi chiaramente ora voi schiappe, vi immaginerete, io ero in questa seconda categoria, quindi chiaro, ho fatto delle frasi bellissime. Ho anche a un certo punto barato con il mio compagno di squadra e abbiamo fatto delle carte finte che abbiamo infilato, tipo orsetto, mi ricordo, cravatta. Le abbiamo infilate lì, ma ci hanno sgamato. Non so com'è possibile. Bastardi. Chissà. Strano, vero? Master maledetto. È andata così. E quindi in realtà questa cosa è andata... Cioè, che poi ovviamente io ho perso subito, visto che la questione era così, e ovviamente non potevo andare diversamente. Però è stato ovviamente una cosa molto interessante e ha fatto venire fuori la tesi ovviamente del gioco, che era quella un po' buttata lì anche nell'abstract che leggevamo all'inizio e che insomma anche comprensibilmente voleva sottolineare questo impoverimento del linguaggio e questa omologazione del linguaggio dovuto proprio al fatto che quotidianamente utilizziamo questi strumenti informatici che come side effect hanno proprio questo di omologare molto il tuo linguaggio, detta in maniera proprio povera, semplice. Ci sono anche delle altre teorie su questa cosa, molto molto brevemente, che sostengono che l'uso proprio per esempio del dispositivo e per esempio anche il T9 anticipa, sì, quasi in maniera automatica, anzi senza, in maniera automatica il tuo pensiero, quindi tu non sei più nemmeno portato a scrivere e a sviluppare un discorso mentalmente in maniera autonoma. E quindi insomma questo nemico è più vicino di quanto pensiamo, forse. Sì, ma torna anche perché chiaramente c'hai un suggerimento continuo che è quello che dovrebbe renderti la vita più facile e comoda, e che poi è quello che viene a sua volta suggerito come modo standard di utilizzare la tecnologia. Cioè la tecnologia ha come scopo quello di semplificarti la vita, di suggerirti, di rendere più facili alcune operazioni. Peccato che queste operazioni spesso sono non cose matematiche e computazionali, ma sono il fulcro della tua vita, tipo. Sì. Insomma, e quindi la parte proprio soggettiva dell'essere umano. E quindi farsi suggerire costantemente dal computer cosa fare nella vita, cioè a volte può essere carino, ma nella maggior parte dei casi è devastante. È vero. Vi ho ucciso. Io piango. È una guerriglia quotidiana. Ecco, questo lo possiamo dire. Quindi vi farò ascoltare della musica per darvi tempo di prendere un fazzoletto sì. e capire che la che vita il mondo sta è per finire. È tutta una merda. E che gli facciamo sentire a questi nostri amici che come noi si stanno deprimendo? Io ora nei meandri della tecnologia. Qualcosa di divertente per tirarmi un po' su. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. È come un arlecchino, ma non si rompe mai. Accattati la corrente, s'accende e partirà. Me lo diceva male. Ecco. Robot. Posso dire una cosa? Il nostro immaginario scientifico, tecnologico, umanoide, replicante, è tutto legato agli anni Ottanta. Certo. E tra 70 e 80, dove sono state... Dove il 2000 compariva come questa era da vestiti di alluminio, domopac. Macchine volanti, cibo e le persone che parlavano un po' così. È anche un po' colpa di Philip Dick, lo dobbiamo accidenti. Dire. Sì, comunque ci avevano dato un po', dai, in realtà. Cioè, del margine, cioè hanno tolto lavorare. Il bello. Cioè, le cose belle no, non sono successe, ma quelle brutte sì. Tutte. Sì. Tutte quante. Sì. E ne succederanno ancora tante. Vabbè, mi avete invitato in trasmissione perché porto allegria, vero? Sono una ventata. D'altronde la brusca ha bisogno di qualche correzione ogni tanto, altrimenti insomma siamo eccessivamente trash. Ci serve un po' di buon umore. Piedi sulla terra, teste sulle spalle. Bene. E cuore oltre gli ostacoli. Che tenerezza. Cuore oltre gli ostacoli mi piace molto. Dai, cuore oltre gli ostacoli sempre comunque. Scusa, che trash. Lanciamolo. No, è trash. Secondo me l'hanno capita in quattro, ma quelli che l'hanno capita hanno riso molto. Vabbè, vabbè. La brusca è, ma non per tutti. È per quattro persone e la cui parlante non ha manco capito di che cazzo state parlando. Certo, perché era una questione di percentuali. Mi autoescludo. Va bene, vado, ciao. Addio. Addio. Rimaniamo noi, vai. Vabbè. Noi persone di un certo lignaggio. Va bene, andiamo avanti perché qua sennò poi tra poco inizia 8 Hertz e ci copre. Cimena. No, no, cimena no, proprio. Cimena. Diverso, sì, è vero, una delle due. Quindi, allora, io solo due cosette c'ho da dire, poi dopo in realtà vi lascio alle microfono. Sì. Bene, grazie, grazie. È molto gentile da parte sua abbandonarci così. No, abbiamo un po' accennato, buttato lì con la scusa e con appunto lo spunto di questo gioco questi due termini, filter bubble e echo chamber, che forse vale la pena un po' approfondire perché... soprattutto il primo viene detto molto, viene usato molto, in realtà penso che non suoni nuovo a molti. Echo chamber forse un po' meno. Ora, sono queste cose un po' stilate dai sociologi, no? Che danno un nome elegante a delle cose che tutti sappiamo, però insomma, se te le dicono, tutto suona più bello. Echo chamber è la paranoia, praticamente. Sì, sì, sì, sì, infatti poi vabbè, si potrebbe aprire un mondo su tutto ciò, però noi rimaniamo sul pezzo. Allora, la filter bubble che cos'è? Rimaniamo all'interno di queste piattaforme commerciali che tutti amano, no? Cioè i social cosi, i social network, Facebook, Twitter, tutte queste robe qua. Quindi queste piattaforme che siamo tendenzialmente soliti usare utilizzano un sistema di personalizzazione dei contenuti che mostrano, no? Questa cosa qua la sperimenterete abbastanza facilmente usandoli perché vi renderete conto che fa parte anche del loro bello. Boh, c'è chi piace, c'è chi c'ha il gusto dell'orito, comunque fa parte del gioco, insomma, che i contenuti che ti vengono mostrati sono dei contenuti che vengono, cioè che sono quelli che si pensa viene reputato che possano interessare all'utente. Cioè, quindi nel mare enorme di internet, di tutto lo scibile umano, non è che tu puoi avere tutto, no? Perché sennò poi diventi scemo, di non voglia che tu abbia accesso a tutti i contenuti. Tu sarai interessato soltanto a una parte di questi contenuti. Quindi anche qui, per venirti incontro, per facilitarti, per evitare che tu debba fare la scelta in maniera autonoma, sono le macchine che fanno la scelta al posto tuo, appunto scegliendo per te i tipi di contenuti che sicuramente ti piacerà ricevere. Questa personalizzazione viene ottenuta profilando le scelte effettuate in precedenza dall'utente. Quindi, per esempio, se voi andate su Facebook e cercate delle cose, guardate in particolare certi articoli, post, eventi, cosa piace ai vostri amici, tutte queste cose qua vengono profilate e viene tracciato appunto un profilo di voi, dei vostri gusti. E alla prossima volta il computer vi potrà... Il computer, l'elaboratore. Le macchine, insomma, quelle lì brutte, saranno in grado di mostrarvi soltanto le cose che vi piacciono. Quindi se prima vi hanno iniziato a proporre la pesca, ma a voi della pesca non ve ne frega niente, inizieranno a proporvi, non lo so, la danza classica, che magari hanno visto che vi piace di più. Quindi fanno tutta questa cosa e azzardano poi delle ipotesi in base a delle statistiche anche un po' più generiche. Quindi, per esempio, il genere dichiarato dall'utente, la provenienza geografica, no? Che anche questa è una roba che sembra marginale, in realtà è devastante, perché chiaramente in base alla provenienza geografica o al genere mi vengono suggerite certe cose o certe altre. Va bene, questo più o meno lo sappiamo, viene chiamato l'algoritmo, in realtà sono una serie di algoritmi, insomma, comunque sia, si ottiene questa profilazione. appunto l'effetto un po' secondario di tutta questa faccenda, che in realtà è tutt'altro che non voluto, cioè non è una roba che non era calcolata e che è venuta fuori così come inconveniente, è proprio voluta e ricercata, è che si crea questa che viene chiamata la filter bubble, ovvero l'utente si ritrova in una sorta di bolla culturale dove diventa inaccessibile qualsiasi altra informazione che esca dal profilo assegnatogli. Quindi tutto quello che si suppone ti possa interessare io te lo mostro, quello che io decido che non ti interessa, cazzi tuoi, non lo vedi. Un esempio molto classico è la ricerca personalizzata di Google, cioè vi sarà capitato un po' a tutti di stupirsi che te cerchi una cosa su Google e il primo risultato è quello, vai su un altro computer e non ti trovi, com'è possibile? Non lo trovo quel risultato, perché? Perché non tutti gli utenti sono uguali, anche se insomma sarebbe più comodo che lo fossero, ma purtroppo ancora non lo siamo. Non ce l'hanno ancora fatta, quindi stanno provando. Tutte queste ricerche vengono personalizzate attraverso appunto questo lavoro precedente di profilazione. Stessa cosa succede per Facebook, le notizie personalizzate, tutta questa cosa qua. Ora, questa è la filter bubble. Ci sarebbe un discorso a parte che esula un po' da questo, ma al tempo stesso è contingente. Le sponsorizzate di Facebook vengono, quindi è tutto un meccanismo di lucro, no? Come le fanno? Chi le crea, quindi chi decide di sponsorizzare qualcosa, ha a disposizione delle targetizzazioni geolocalizzate per interessi, per appartenenza culturale, tante altre cose, quindi semplicemente Facebook raccatta i nostri dati per poi creare una piattaforma pubblicitaria. Certamente. Sì, e poi la filter bubble si interseca con quest'altro fenomeno chiamato echo chamber, ovvero banalmente se te ripeti un'idea, un concetto, un'informazione tantissime volte, si produrrà questa specie di effetto eco che tenderà a convincerti che quell'informazione è vera. Cioè, perché se una cosa la sento dire da più persone, magari oltretutto mille volte al giorno, è una certa, smetto anche solo di mettere in discussione che quella cosa possa o non possa essere vera, e do per scontato che è vera, la dico con tutti. Quindi ogni voce contraria in qualche modo risulterà sottorappresentata, perché chiaramente se le altre vengono impopolare, totalmente sì, impopolare, e l'altra emergerà per forza. Questo è stato usato abbondantemente durante le campagne elettorali, insomma si è visto con risultati direi ottimi. Quindi se su un social media mostro interesse verso un argomento, quel social media tenderà a ripropormi argomenti simili o uguali, fino a rinchiudermi poi alla fine in un mondo dove tutti dicono la stessa cosa e a convincermi che se tutti dicono quella stessa cosa appunto sarà vera. Questa, oltre ad essere appunto una roba, un meccanismo paranoide abbastanza inquietante, lasciamo perdere i meccanismi più ovvi, che sono quelli di propaganda, con i quali chiaramente questa cosa, cioè, che è il motivo per cui nascono queste cose e perché vengono foraggiate e perché hanno successo. C'è stata fondata la politica di tutto il Novecento con questo. Esatto. Questa è semplicemente novità. Infatti una l'applicazione in altri ambiti, ma è pur sempre quello. Esattamente, cioè non è niente di nuovo poi alla fine della fiera, però è farlo con degli strumenti diciamo nuovi e tecnologicamente diversi, ma insomma è la stessa cosa. E l'altra, però al di là appunto del meccanismo più da propaganda, che è facilmente intuibile, l'abbiamo anche visto, ma c'è anche un effetto ancora secondo me più subdolo, che è quello di, per esempio, io penso alla più che, non lo so, l'utente della Lega, cioè l'elettore della Lega, che chi cazzo se ne frega, cioè tanto era un coglione, certo, cioè non è che, chiaro, non è che vabbè, in altro modo non ci cavavi niente di buono lo stesso, cioè certo. Non è che mi metta a piangere per lui, mi preoccupa di più le persone, io reputo un po' più intelligenti, no? E per esempio le persone che parlano di politica, anche dei nostri giri anche voglio dire rivoluzionari o comunque insomma più riottosi, ecco. Militanzi. Se si rinchiudono in una camera dove sostanzialmente si sente sempre solo la stessa campana, si parla sempre solo con noi stessi, è quello che peraltro facciamo da circa 70 anni. In questa maniera proprio lo facciamo alla grande, senza possibilità di via di fuga, e quindi ci infiliamo praticamente in una camera piena zeppa di volantini e manifesti, oppure perché l'altra cosa dell'eco chamber è mostrarti ovviamente non solo i contenuti con cui tu sei d'accordo, ma quelli polarizzati al lato opposto, quindi quelli che sanno che ti fanno infuriare. Quindi praticamente tu vivi in una bolla fatta di volantini e Salvini, cioè, e alla fine ti ammazzi. Una rima terribile, volantini, sì, Salvini e volantini e Salvini. E Salatini, no, ed è terribile. Cioè, secondo me, questa cosa qui, ecco, se nota di ottimismo, cioè, se siamo tutti presi male in questo 2020, è per questo, perché stiamo in una camera, in un echo chamber terribile. Ma se mettessimo il naso fuori da Facebook, ci renderemmo conto che il mondo, sì, non è roseo, ma insomma, non è manco questa cosa così angosciante come ce lo mostra Facebook. Cioè, come mia mamma che guarda la televisione, guarda, non lo so, Forum, e poi s'angoscia, dice oddio, è un mondo terribile. Fatto, no, vabbè, dai, però cioè, è forum, ecco, bene, ecco, fatto, ho detto. Così, ben ti sta. Quindi, ecco, chamber, paranoia. Comunque c'è anche la rima con Camerini, però Camerini ormai ve lo faccio ascoltare. Camerini poi è bello. Quindi non si può più mettere. Io ve lo dico, sono le 21.04, purtroppo abbiamo dei tempi molto stretti perché poi parte la trasmissione di 8 Hz. E tra l'altro non abbiamo nemmeno usato il nostro sottofondo. Non abbiamo usato il nostro sottofondo. Quindi potremmo salutare tutti così? No, questo ce lo teniamo. Ce lo teniamo, non vi spariamo la cartuccia. Lo voglio tenere, cartuccia che tengo nel cassetto. Ma allora, i nostri social li abbiamo già detti, giusto? Sì. La replica la dovete replica, cercarla, ma dovrebbe essere tendenzialmente il sabato pomeriggio. Sì. Verso ora di cena. Bensì, la prossima puntata giovedì prossimo, quasi sicuramente in diretta, forse no, chi lo sa, boh. Suspense. Che dire, tante grazie. È stata una puntata meravigliosa. È stato un ottimo rinizio della Brusca. Ma grazie, un 2020 all'insegna 2020 a tutti. Dell'allegria, del buon umore. Proprio come se fossimo in un film di Vanzina. Quando avete bisogno, chiamatemi, non c'è problema. Buon alle 9000 2020 a tutti. Che con dire, tanto realismo. Dalle vostre bruschette che stasera sono... Ci risentiamo domenica prossima e mercoledì prossimo per la fuga del gatto e Slick Chick. Hai qualche altra trasmissione in canna? No, infatti in realtà sono ospite praticamente sempre. Ero a Coccoli al Silicio, cioè ovunque, quindi... Sarai ospite anche delle tue stesse trasmissioni? No, infatti Slick Chick l'ho saltata perché non ne potevo più di venire nella Wombat, della tana del Wombat, perché ho detto basta. Un po' di riposo, giustamente. E poi quindi però riprenderò le mie solite. Bene, qualche anticipazione sui prossimi argomenti? Non le ho ancora preparate. Okay. No, si dice ho tante cose in serbo per voi, non voglio rovinarvi la sorpresa. Sì, sì, ecco, infatti. Ecco. No, dai, da dove iniziare? No. Bene, allora saluto combattoso a tutti, baci e abbracci. E salatini, tanti salatini. Buoni salatini a presto, a tutti. Ciao. A giovedì. Ciao.